No, non vi preoccupate, il nostro Akame non è stato vittima di qualche terribile malattia dell'apparato vocale. Siamo costretti a farlo rappresentare da una cassetta che non deve essere stata registrata proprio alla perfezione. Parliamo di felicità per consolarci. Se mi chiedessero cosa penso della felicità, io probabilmente risponderei come suppongo fareste voi all'analoga domanda che in vita mia me ne è toccata troppo poca. La risposta è un po' egocentrica forse, ma in effetti questa auspicabile condizione, a meno che sia uno stato d'animo, non so, è ricercata da tutti, è considerato un obiettivo della vita virtuosa da Aristotele e dagli stoici, anche dagli epicurei forse. Il diritto a cercarla è garantito dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ma in questo nostro globo sublunare è veramente poco diffusa. E poco ci può consolare il fatto che Erodoto ci spieghi per bocca del saggio Amasi, re di Egitto, al paragrafo 40 del terzo libro, se volete delle informazioni precise, come l'eccesso di felicità sia sempre pericoloso, perché suscita lo phthonosthéon, l'invidia degli dèi, con conseguente inevitabile annichilimento di chi ne aveva goduto. Nessuno ha pretesa di eccedere, e mai più di felicità ne tocca davvero poca. Ma se Erodoto non serve, forse in futuro ci potremo consolare con la mesta considerazione che se non esattamente felici, almeno siamo in buona salute psichica. Infatti apprendiamo dal Corriere della Salute del 21 febbraio ultimo scorso come sull'ultimo numero di una rivista di indubbia serietà, dicono così, il Journal of Medical Ethics, figura l'articolo di un tale dottor R.P. Bental in cui, citazione, si propone che la felicità sia classificata come un disturbo psichiatrico e inclusa nella prossima edizione del DSM, che vuol dire Sistema Diagnostico delle Malattie Psichiche, come un disturbo affettivo maggiore. Infatti, spiegazione, essa è statisticamente anormale, mette in luce alcuni sintomi ben precisi ed è associata a un certo numero di alterazioni della capacità cognitiva, per cui probabilmente rispecchia un'anomala funzione del sistema nervoso centrale, un anomalo funzionamento, scusate, del sistema nervoso centrale. Fin qui la citazione. Poi il Corriere della Salute spiega che, come si capisce dal tono della nota, si tratta di una provocazione, perché l'oggetto di discussione era l'eccessivo allargarsi delle categorie della diagnostica psichiatrica in sconcertante confusione con buona parte delle emozioni umane. Ma visto che il confine tra emozione da un lato e alterazione psichica dall'altro non mi sembra proprio così pacifico, la precisazione lascia un po' il tempo che trova. E se la felicità è una malattia, non c'è altro da fare che lavorare una sua possibile cura. Immagino che si stia ricercando qualche psicofarmaco di nuova generazione dall'effetto sicuramente depressivo. E guardate che non ci sarebbe nulla di strano. In fondo, come la storia della medicina ci ha dimostrato abbondantemente, per definire malattia qualsivoglia condizione umana basta solo volerlo fare. E nella fattispecie nessuno può negare che chi sostiene o pretende di essere felice nel mondo in cui ci troviamo a vivere proprio tanto giusto non è. D'altronde ci pensa la nostra stessa fonte in un riquadrato a mettere le cose a posto. Dice che tutto il problema sta nel rapporto tra desiderio e realtà. Cioè, chi è felice deve sapere che la sua condizione è affatto provvisoria. Deve essere attrezzato a far fronte alla valanga di guai che stanno per scatenargliesi addosso, se no la sua felicità è una follia, che è proprio quello che diceva Erodoto. Insomma, il problema è sempre quello, squisitamente ideologico e non medico, di sapersi adattare e di non volere troppo, che a pensarci bene è un criterio sociologicamente utilissimo, specie se applicato agli altri. Vi siete mai chiesti come mai nessuno abbia avuto la bella idea di scoprire che anche la moderazione è una malattia?